evil. Calling all the girls, do you hear me? All around the world, city to city. Cheers to the girls, no deuce to the guys. Now I got a chicken and a goose in a ride, getting loose in a ride. Hey, hey, look, look, look, the move to the move to the move to the side. Bottoms up, bottoms up. Could I get that Coke? Could I get that Henny? Could I get that Margarita on the rock, rock, rocks? Could I get soap all around that rum, rum, rum, rum tray? I was like, yo, Trey, do you think you could buy me a bottle of rosé? Okay, let's get it now. I'm with a bad bitch, he's with his friends. I don't say hi, I say keys to the Benz. Keys to the Benz, keys to the Benz. Muff, muff, I got B to the 10. If a try to get cute, I'm a snuffer. Double lot of money, and I done y'all. Then y'all, then I'ma go and get my Louis Vuitton. Excuse me, I'm sorry, I'm really such a lady. I rep Young Money, you know Slim, baby. And we be doing donuts while we waving. Let's beat, beat, beat. We give a lot of money to the babies out in Haiti. Yelling all around the world, do you hear me? Do you like my body? Anna Nikki. Rest in peace to Anna Nicole Smith. Yes, my... Su questa sorta di orgasmo dell'amica di Snoop Dogg, noi siamo sempre in diretta. Vedo Bruma che se la ride dietro l'acquario. L'amica di Snoop Dogg. Ma sì, ma... cioè, sai com'è, un po' ti viene in mente. Va bene, tanta ciccia, tanta roba questa notizia, come questa notizia, come settimane, dovevo dire questa settimana come notizia. È stato un grande. Un grande, ovviamente, sì. Manca Andrea, la dislessia si deve, sì, si deve portare avanti. Io oggi in persona, me e Andrea, quindi ovviamente i difetti e i pregi dell'uno e dell'altro. Poi troveremo un giorno i pregi di Andrea. Allora, diciamo, in questa settimana tante notizie, ma ovviamente qual è l'argomento di cui si parla di più? Brumma, lo chiedo a te, vediamo se sei pronto. Ma visto la scorsa puntata, non so se hai seguito. Io qualcosa, perché capirai. La scorsa puntata è stata una puntata, sembrava la puntata sul sesso. Figurati, non ci sono io, Andrea parla solo di quello, non ha altri argomenti di cui argomentare, appunto. Quindi, scusate, penso che l'argomento più... Sì. Sentito, gettonato, sia il sesso. Ma in particolare cosa? Non proprio il sesso, ma il seno di Kate Middleton. Sì. La tetta della notizia. La tetta della Middleton ha fatto notizia. Che poi io dico. Sì. Ecco, vediamo, Brumma dice la sua. È sempre una tetta, insomma, nel 2012 chi si scandalizza ancora? Ma per poi una chiama tetta? La tetta. Cioè, ma tu l'hai vista? Sono due appendipanni, è cioè, una tetta. Una tettina, una tettinuncola. Cioè, che poi alla fine, praticamente, come dice anche Clemente Mimoun, ex Mimoun, sai, proprio di una specie diabolico. Di sì, diabolico orangotango. Non so se hai letto, ha scritto un tweet che, secondo me, poi credenti o non credenti, dico liberi di pensarla come volete, però ha scritto: si pubblicano vignette contro quello che centinaia di milioni di persone considerano Dio, ma è proibito pubblicare le foto di Kate. Bah. In effetti è lecita la domanda. Certo. Ok, uno può dire quello esiste sicuramente, quello non si sa se esiste, però comunque tu ferisci la sensibilità di tanti. Chi si è ferito dalla sensibilità di vedere la tetta della Middleton? Cioè, ma forse nemmeno lei. Ma nemmeno lei, che è andata a vedere altre tette, tra l'altro delle donne aborigine che l'hanno accolta non so in quale viaggio che ha fatto col marito. Però vabbè, niente, va così, vanno così le ma cose. Ma perché sono le tette della Middleton? Sì, sono sì. Sono le tette reali. Ma non sono neanche tette, come l'ha chiamato qualcuno, sono pomelli di cassetto. Ma cioè, sono reali. Ma sono reali, questo è vero. Che poi dico, tu l'hai sentito, c'è la sentenza che dichiara che entro 24 ore devono essere restituite tutte le foto, ogni 24 ore di ritardo 10.000 sterline di multa. Ma loro pensano che nell'era del digitale tu strappi le foto, sì, le bruci, sì. Non ce ne sono, non ce più. Ne sono più, nessuno ne ha più, figuriamoci, figuriamoci. E poi tanta altra roba durante la settimana, per esempio c'è stato un grande ritorno. E forse oggi potremmo averlo qui tra poco. Tra poco. Ma un grande ritorno, ovviamente, certo. Sì. Non so se per tutte è un grande ritorno. Vabbè, però comunque è un ritorno. Sì, è il ritorno. È il ritorno. Però non so se lo avremo adesso o dopo la pubblicità. No, penso tra un paio di minuti. Tra un paio di minuti riusciamo a collegarci. Dopo quindi la pubblicità, con lui. Dopo la pubblicità, dopo la canzone, facciamo una chiamata. Vediamo. Sì, sarà un grande piacere anche perché lo intervisterai tu. Perché io vado a chiamarlo, ma sì, manca certo, Andrea, manca che Andrea, lo intervista. Quindi sarà roba tua. Lui, insomma, visto che fra pochi minuti ci collegheremo, possiamo iniziarne a parlare. Magari se riesci anche a rintracciare il suo inno, chiamiamolo così, anche se non parliamo del colle. Sì, è una persona che per un po' di tempo non ha quasi fatto parlare di sé, completamente non si può dire, cioè. Però adesso è tornato preponderantemente, prepotentemente alla ribalta. noi facciamo partire altri inni che no, non questo c'è... è l'inno. Questo è l'inno nazionale. Ma lui ha bisogno di un altro inno, a meno sì, che dico... è sempre l'inno. È sempre l'inno. Quindi noi... ci sta, tu parli di autorità nazionali. Sì, ma io... cioè, ovviamente. Allora. Ok, allora noi stiamo per provare a collegarci. Prima metteremo una canzone e poi proveremo a collegarci con un personaggio basso ma grande dentro, grande dentro. Da grande, sì. Grande, insomma. Va bene, a proposito di animalisti e cavalli, noi ci ascoltiamo un grande pezzo di quest'estate, gli Scissor Sisters in Only the Horses. Allora siamo tornati sempre con l'Onda in Onda, questa è sempre Radio Panorama e allora ricordiamo sempre i contatti, allora ci trovate all'indirizzo facebook.com/l'onda in onda con la L o twitter.com/onda in onda senza la L perché dovevamo risparmiare, in quanto su Twitter sapete che si paga per ogni lettera in più nel nome del profilo. Come lo scarabeo. Esatto, come il nostro scarabeo valgono più punti ovviamente le parole più lunghe. Una volta ho scritto cara peretetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetet puoi immaginare che puoi inventare qualsiasi cosa è successo. Tutte le parole vanno bene, cioè per Andrea sono tutte realistiche. Va bene, noi ve l'abbiamo preannunciato prima, c'è un grande, un grandissimo, oddio per alcuni piccolissimo, ritorno in campo, si avvicinano le elezioni politiche. È anche un ritorno in radio, perché tanto è anche un ritorno in radio perché non lo sentiamo parecchie, sai, parecchie, quando l'abbiamo lasciato che forse era in vacanza vicino Monti, non mi ricordo. Sarà stato in vacanza. Sì, è possibile. Ma ora ce lo dirà lui. Insomma, in vista delle politiche dell'aprile 2013, abbiamo l'onore di avere con noi, è inutile dirvelo, facciamo partire l'unico inno che può avvicinarlo a noi. Se non lo sente non... Eh sì, no, non, proprio non, ma deve entrare nel pieno. Vedi, questo è solo l'intro, ma se lui non sente... Però senti, inizia a salire un po'. Cioè, senti che c'è l'afflato. Io vado a piangere. Non ce la faccio dopo il fatto che manca Andrea anche questo. No. Unite alle mie, Cremiaccio, sono contento, sono veramente incredibilmente felice, Cremio! Benvenuto, presidente. Ho stappato tre bottiglie solo con la forza del pensiero. E sono sei, crimiaccio. Attenzione alle bottiglie, non si ubriachi. No, guardi, la paura sarebbe di distruggere il vetro e vedere lei risucchiato qui dentro. Certo. Un po' come la pressione dell'aereo, crimiaccio. È la troppa forza del pensiero. Esatto, il mio pensiero risucchia tipo un buco nero, crimio. Presidente, ma ci dica un po', sì, questo ritorno. Guardi, io sono veramente contento. In realtà non me ne sono mai andato. Ma come non se ne è mai andato? No, sono sì, stato sempre lì nascosto dentro i pantaloni di Monti, sotto la gonna della cancellieri, e gliela cancellavo. Non sa cosa. Ma cosa, presidente? Non dica questo. Non posso dirlo, assolutamente. No, non lo diciamo. Ma cosa ha fatto in questo anno? In questo anno sono stato a girare, diciamo, a governare le redini. Le tenevo però in nascosto, crimio. Ma come? Quindi c'era lei dietro tutto? Dietro tutto ci sono sempre io, tutti gli altri davanti a me, crimio. Scusi, allora dietro l'IMU, dietro le tasse, dietro tutto c'è sempre lei? Sì, e adesso, contromossa geniale, io le ho messe e io le leverò per essere rieletto. E quindi era tutta una strategia. Ha capito? Le rispiego. Io vengo debilitato dal trono, giusto? Mi proprio mi detronizzano, crimio. Lei mi ha detto ti, mi ha dato del tu, no, scusi, lei è un scusi, compagno, no, via! Dicevo, mi detronizzano, dopodiché sono un anno lontano, ma decido di mettere dei provvedimenti impopolari. Dopo decido di tornare e allora, via, li seguo tutti e risalgo come un crimiaccio! È veramente un genio, presidente. Sì, veramente. Io toglierò l'IMU! L'IMU, applausi. Applausi. Speriamo un po' di più. Ma c'è la curva nord qui che non è occupata. È un po' spenta. È un po' addormentata, sì. Poi al primo figlio 2000 euro. Se si chiama Silvio 4000. Addirittura siamo tornati un po' ai tempi. Se qualcuno ha se qualcuno ha già un figlio che si chiama Silvio sono 6000 euro. Perché anche retroattiva. Mamma mia. Francesco. Grandi e poi promesse. Sì, assolutamente. No, saranno mantenuti. Poi via la testa sui rifiuti. Passo io con l'asino a caricarmela ogni mattina. Lei personalmente da sì, ogni 60 casa. Milioni di italiani. Tutto quello che buttate via passo io e me lo ciulo. E dove lo porto? Ad Arcore. Sto costruendo un teatro di immondizia. Ah, bene. Sì, una buona iniziativa per l'Italia. Mi piace riciclare. Eliminiamo anche tutte le discariche. Esatto, sì. Però poi vi piaccio un bel nucleare in Sicilia, crimio. Perché proprio in Sicilia? Ma perché mi piace, è un bel posto e deve esserci tutto. Dalla natura al petrolio al nucleare. Ma come? Crimio, crimio, crimiaccio. Presidente, quindi lei chi voterà? No, io ancora... Lei si astiene! Lei no. Si astiene! Mi asteno! Sì? Sì! E io mi astenio, perché ho bevuto e parlo male, perché in me c'è l'anima del Massaro! A proposito, dove è quel comunista del Massaro? Mi manca! No, oggi Crimiaccio, mi manca veramente tanto! Abbiamo detto inizio puntata, oggi Andrea purtroppo è mancato. Non... Abbiamo un comunista in meno. Stiamo per prendere il governo del paese. Arrivederci a tutti. Festeggiamo un applauso al presidente Berlusconi. È stato veramente emozionante riaverlo qui. No, io sono veramente senza parole. Allora direi che forse c'è il tempo di spararci un altro grande pezzo. E allora ci ascoltiamo Usher con Climax. Going our fast, we've reached the climax. We're together, now we're undone. We'll commit, so we choose to run away. Do we separate? Oh, don't wanna give it, it's all we both gave up. Can't take it back, it's too late. Somehow feet off the ground. Love is the cloud that keeps raining down. Where are you now when I need you around? I'm on my knees, but it seems we're together, now we're under. gave my best, it wasn't enough. You get upset, we argue too much. We made a mess of what it used to be love. So why do I care at all? Eccoci tornati ancora dopo questa emozionante intervista. Che ne pensi, Bruma? Anzi, proprio tu che l'hai intervistata, cioè, hai avuto il piacere di interloquire. Ma mi ha stupito tutti questi progetti. Sì, per, cioè, pazzesco. Tranne per il nucleare in Sicilia. Che nucleare dico, in Sicilia non siamo per niente d'accordo, no, però. Non siamo d'accordo. Oddio, però prova a pensare, visto che è retroattiva la legge, quanti bambini da domani si chiameranno Silvio. E quanti, cioè, Silvi saranno contenti? Sì, e quante Silvie? Soprattutto sì, le Silvie. Ma non so se vale per le, no, ma sai, in effetti forse lo dovremmo chiedere. Magari lo richiamiamo la prossima settimana, perché vediamo se ha qualche elemento in più nel programma e puntualizziamo anche questo. Una studiosa di Harvard rivela: un papiro copto parla della moglie di Gesù. È una cosa seria, uscita proprio in questi giorni, credo ieri o altro ieri. Nel corso del corso di un convegno a Roma, una storica della cristianità antica, l'Harvard Divinity School, ha presentato un frammento di papiro in copto nel IV secolo. Io, se avessi detto in copto, penso che Andrea mi avrebbe detto: ma che materiale è il copto? Invece è un linguaggio che conterrebbe una frase mai esistita nelle il copto sacre scritture. È quasi cotto, capito? Sì, perché poi c'è il biscopto quando ripeti le parole. Questa è una delle più grandi cagate mai dette. Speriamo che non l'abbia sentita nessuno. Insomma, contiene la scritta: Gesù disse loro, mia moglie. Non ci è dato sapere se la frase continua dicendo mia moglie è una gran, non lo so, non sappiamo bene. Però il frammento è più piccolo di un biglietto da visita e contiene 8 righe di scrittura in inchiostro nero, leggibili solo con la lente di ingrandimento. Sì, però dico 8 righe per dire mia moglie. Esatto, ripeto. No, vabbè, no, infatti continua: lei sarà in grado di essere mia discepola. Sarebbe un'altra frase contenuta nel testo. A dare l'annuncio della scoperta, che ricorda le trame del codice da Vinci di Dan Brown, è stata Karen King, la prima donna a occupare la cattedra più antica degli Stati Uniti. La provenienza del papiro resta un mistero e il suo proprietario ha chiesto di restare anonimo. In un'intervista al New York Times e ad altri giornali americani, la King ha sottolineato che il frammento non deve essere preso come la prova che il Gesù stoico fosse effettivamente sposato. Il testo sarebbe stato scritto secoli dopo la vita di Gesù e tutta la prima letteratura cristiana non sfiora la questione. La scoperta, a suo avviso, è interessante perché conferma antiche tradizioni secondo cui Gesù era stato sposato. Ce n'era una già nel secondo secolo, ha detto la studiosa di Harvard, legata al dibattito se i cristiani dovessero sposarsi e avere rapporti sessuali. Insomma, quindi il dibattito è aperto. Allora noi, prima di lanciare la pubblicità, ci spariamo un pezzo di quella gran pezza dell'Ubalda, come diceva un film con Alvaro Vitali. Il bacino più movimentato al mondo. Esatto, e io ti mando un bacino e ti dedico Addicted to You. Oh. Cada vez que me acuerdo yo siento en mi pecho el peso de una roca. prendido a mi almohada. Y tú en cambio que tienes memoria de pez, no te acuerdas de nada. Son tus manos de hombre y el olor de tu espalda. No es que no tiene nombre, lo olor de tu mirada. I'm addicted to you, porque es un vicio tu piel. Baby, I'm addicted to you, y quiero que te dejes querer. I'm addicted to you, porque es un vicio tu piel. Baby, I'm addicted to you, y quiero que te dejes querer. Fall in love. I'ma put it down, down. You can fall in love. I'ma put it down. You can fall in love. I'ma put it down, down. You can fall in love. I'ma put it down. You can fall in love. I'ma put it down, down. You can fall in love. I'ma put it. I'ma put. Stai ascoltando L'Onda in Onda. If you put it down right, like the way I want it, play it cards right, maybe we can fall in love. If you put it, if you put it down, if you put it, maybe we can fall in love. You gon' fall in love. I'ma put it down, down. You gon' fall in love. Hey. If you put it down, maybe we can fall in love. I'ma put it down. You gon' fall in love. I'ma put it down, down. You gon' fall in love. If you put it down, maybe we can fall in love. Ooh, your talk game is so tough. Damn, I love it all. Even the way you flex, that's what turns me on. Ooh, you know you make me weak. Just 'cause of where you are. 'Cause everybody in here know that you're. And still I'm letting you know I got the sweetest heart. Any man that wants this, babe, he gon' have to work hard. From what I see, you got what I want. That's just half the part. Gotta see what you put on it to make sure you're the one. If you put it down right, like the way I want it, play it cards right, maybe we can fall in love. If you put it down, if you put it down, if you put it down, maybe we can fall in love. You gon' fall in love. I'ma put it down, down. You gon' fall in love. If you put it down, maybe we can fall in love. I'ma put it down. You gon' fall in love. I'ma put it down, down. You gon' fall in love. If you put it down, maybe we can fall in love. I hope the chivalry ain't dead to you, boy, 'cause I'm grown. Got to pull up in that, come up with that when I see what I want. Gotta go old school with me sometimes. Still keep it so 2012 on me, 'cause I still beef it up. And yet it's still, I want you to know. Got the sweetest heart, even though he can ride it cool for me. He gon' have to work hard. And now I see you got what I want. That's just half the part. Gotta feel what you put on it to make sure you're. If you put it down right, like the way I want it, play it cards, maybe we can fall in love. If you put it down, so baby, put it down. If you would, maybe we can fall in love. Put it down, you gon' fall in love. I'ma put it down, down, you gon' fall in love. If you put it down, maybe we can fall in love. Put it down, you gon' fall in love. I'ma put it down, down, you gon' fall in love. If you put it down, maybe we can fall in love. Why you playing? Girl, you know, with all this money and all your cake, girl, you better stop, I got a big ego. I'm sipping on that brandy, that liquor comes in handy. And girl, I know you fancy, but this party I'm financing. Financing. Told me it ain't even like that. She been hating all night, her friend up tight, all right. I took her out the club, told her girl she be right back. Back to the crib, and in the morning all this was worth it. Baby, go get your hair did, then buy you a couple purses. You just perfect. You can be the one. Shoulder to cry on. You might change the way I feel. Teach me how to let go. E siamo tornati in diretta dall'Onda in Onda, sempre su Radio Panorama. E devo dire che mi dispiace tantissimo non avere la webcam in radio. È vero, ci mancano un po' la webcam. Sì, ma perché tutto quello che accade qui, no, lascia perdere anche nella pubblicità. Ma per esempio durante questo pezzo abbiamo visto equilibristi con Di tutto, c'è il circo qui. C'è il circo tra l'altro, ecco, anzi pubblicizziamo visto che tutti ci fermano e ci scartavetrano i marò. Ci fermano per strada per darci i pizzini per entrare gratis, anche se pizzini detto in Sicilia è un po' brutto comunque. Allora c'è il circo d'Arix che credo o temo, non so cosa dire, inizi tra domani. Domani alle 17:15, primo spettacolo. Ragazzi, abbiamo qui uno dei come si dice, equilibristi, trapezisti, sì, sì, del circo Darix, il grande Brumba. Brumba, raccontaci un po' quando hai iniziato, a che età? Ho iniziato a 4 anni. No, devi metterti l'accento russo, se no non ci crede nessuno. Io ho iniziato a 4 anni. Ah, poi crescendo, mi è venuta voglia di trapezio. Ah, sì, io sapevo che sapevo un'altra voglia. Comunque sembrava un po' Luciano decrescendo invece. Sì, sì, sì. Poi bevendo vodka ho allenato trapezio. C'è anche fegato, non anche, credo solo trapezio. Anche fegato. Anche fegato. Va bene, abbiamo già in linea, se non sbaglio, che però sta dicendo, ma questi sono proprio una masnada di pazzi. Insomma, diamo il benvenuto a Lorenzo Forte delle Carte. Ciao Lorenzo. Ciao, ciao a tutti. Scusaci per le nostre divagazioni folli, no, ma sai, figurati. Siamo fatti così, come diceva una vecchia serie che spiegava il corpo umano, noi siamo fatti così, forse male, però siamo questi. Come stai Lorenzo? Dimmi come benissimo, stai, come va? Tutto bene. Grazie. Questa è già una bella risposta, perché purtroppo ci è capitato di avere intervistato gruppi il cui cantante risponde così. Ciao, come stai X? Questa era la risposta. Bene. No. Ah, sei sicuro di stare bene? Sì, sì. No, abbastanza. No, sì. Tu sì, io ti stavo imitando altri cantanti che purtroppo invece non sprizzavano gioia di vivere. Ho capito. Allora, ascoltami, abbiamo qui tra le mani questo disco che intanto complimentissimi per il lavoro di... Grazie. Insomma, per la costruzione. Già a guardarlo è un capolavoro, devo dire, perché ha un booklet bellissimo, un lavoro di post-produzione immenso. Tra l'altro l'altro mio collega che oggi purtroppo non c'è, non sappiamo se mai tornerà, fa il fotografo e mi ha spiegato un po' tecnicamente il lavoro di post-produzione che c'è dietro queste immagini così particolare. Ben lavorate, complimenti quindi intanto per questo lavoro. E poi, grazie. E poi andiamo al succo, andiamo alla musica, sì, perché è un gran bel disco rock. A noi piace molto il rock, passiamo diversi gruppi sia indie sia rock alternative, insomma spaziamo comunque in quello che è il grande pianeta del rock. E questo disco ci è piaciuto molto, devo dire che ci è piaciuto, grazie, molto. E tra l'altro abbiamo l'onore di ospitarlo appena 5 giorni dall'uscita, giusto? Correggimi se sbaglio. Sì, è uscito il 14, ecco, precisamente. Perfetto, quindi siamo proprio freschissimi, non è passata nemmeno una settimana. Ci hanno colpito diversi pezzi, però io vorrei far parlare te, vorrei capire come è nato questo disco a 2 anni dall'ultimo lavoro e dirmi anche quali sono i pezzi che hanno visto magari una, diciamo, gestazione più particolare, che a cui siete più attaccati. So che è sempre brutto scegliere un figlio, però noi ve lo chiediamo, così se è possibile. Guarda, Cento principalmente nasce da, come avrai capito, da una voglia di fare del rock concreto che sì, ultimamente si sta un po' perdendo, mm-hmm, ma nello stesso tempo anche la voglia di voler dire qualcosa sia a livello generazionale sia a livello personale, introspettivo, quindi ci atteniamo sempre a dei suoni molto ruvidi, molto grezzi, ma comunque senza mai perdere del tutto la melodia o la forma canzone. Sì. I brani sono 12, quindi sceglierne uno, cioè noi possiamo dire che siamo molto legati proprio al brano 100, infatti è quello che abbiamo scelto come titolo dell'album. Abbiamo scelto questo titolo perché il brano 100 non è né, secondo noi, né il più bello né il più brutto, però è quello che ci appartiene di più a livello di stile proprio. Cioè ci sono dei brani che ti fasci la testa molte volte per comporli, per quella parola forse non va bene, quel riff non va bene, invece 100 è uno di quei brani che è venuto proprio spontaneo. Ma guarda, mi fai doppiamente felice, perché proprio il mio intento non era di sapere qual era il brano a cui foste più legati per un motivo X, ma quello che semplicemente vi trasportava, vi attaccava, sì, vi teneva di più, sì, perché aveva conosciuto, come dire, un, ripeto il termine, gestazione più fluida, più... è così, sì, è uscito così. E sono, dicevo, doppiamente contento. L'altro motivo è perché è proprio il brano che abbiamo scelto da far ascoltare alla fine di questa intervista ai nostri radioascoltatori, quindi sono veramente contento. Sì, l'hai azzeccata, l'ho azzeccata anche io. Diciamo che abbiamo vinto entrambi, cioè è stato uno scambio alla pari. È stato uno scambio alla pari. Dico, quando tu dici che è da un po' di tempo che un disco rock, cioè il rock, diciamo, ha perso un po' quella funzione, hai usato un termine preciso se non sbaglio, cioè un rock pieno, un rock più, come dire, diciamo in abito, col suo abito, con i suoi vestiti veri e propri. Perché sì, secondo te, per raggiungere questo rock bisogna avere dei riff come si deve con la chitarra, oppure deve essere orecchiabile ma non banale? Cioè, dimmi un po' quali dovrebbero essere, sì, secondo praticamente te. Praticamente è quello. Io penso che soprattutto in Italia, sì, soprattutto in Italia, la scena alternativa rock si sta spostando sempre di più verso l'indie, verso il per forza essere strani. Quindi manca, secondo me, secondo noi, una vera e propria una band che faccia delle vere e proprie canzoni rock. Sì. Quindi col suo riff, col suo ritornello, senza essere per forza troppo a tutti strani, i costi. Esatto. Io devo dirti che la penso abbastanza come te, perché vabbè, io non voglio io adesso amo l'India, non voglio assolutamente. Guarda, figurati, noi siamo qui e abbiamo passato tantissimi gruppi indie, li abbiamo intervistati, abbiamo avuto anche il piacere di intervistarne molti, quindi però ciò non toglie, magari il mio amico Andrea è un po' più spostato verso quel tipo di indie, però è lo stesso amico, e questa è un'altra vittoria vostra, devo dire. Ora sembra che vi stiamo a fare marchetta per tutto il programma, però è la verità, non sto, diciamo, a fare il paraculo di nessuno, ma Andrea stesso mi ha detto: guarda, ascolta questo disco perché è bellissimo. Noi l'abbiamo ricevuto prima che uscisse, diciamo, per il grande pubblico, e ci ha colpito fin da subito. Grazie. Quindi sono veramente complimenti sinceri. E senti un po', ma come concerti, come live, io qualcosa ho intravisto, ho visto che avete già molta roba a ottobre, se non sbaglio, novembre. Sì, di ufficiale il tour partirà ad ottobre. Le date sono, aspetta che non ricordo bene, dovrebbero essere il 6 ottobre a Bisceglie, 7 ottobre a San Vito dei Normanni, 10 ottobre Milano, 12 ottobre Torino, 20 ottobre a Sarno, 21 ottobre a Roma, e il 27 ottobre torniamo in Puglia a Grottaglie. Va bene, allora noi non ti intervisteremo mai più perché non c'è una data siciliana. È stato un piacere, addio. Cioè, no, ma le date sono in continuo aggiornamento. Vedi, cioè, se no poi sembra che noi siamo d'accordo, tu dici una cosa e ti dico mi piace, va bene, ti devo dire che c'è qualcosa che non va. È normale. Non mi puoi mettere un qualcosa che non riguardi la punta dello stivale italiano, perché assolutamente. Come disse Goethe, l'Italia è tutta bella, ma la chiave sta al sud, in Sicilia, quindi dobbiamo venire in Sicilia, assolutamente. Ma sicuramente a novembre verremo, cioè queste sono le date di ottobre, ma ci stiamo organizzando, diciamo. Ecco, va benissimo. Sono in continuo aggiornamento. Bene, bene. Allora, guarda, io ti ringrazio tantissimo per la tua disponibilità, sei stato veramente un grande, complimenti, e vi auguriamo il meglio sia per quest'album che per il tour, che poi è proprio il rapporto, penso, dal vivo con i propri fan, che è la cosa più bella. E insomma, sta partendo in sottofondo il pezzo, e allora noi ti salutiamo, ti facciamo ancora un in bocca al lupo e ci ascoltiamo delle carte 100. Ciao Lorenzo, ciao, alla prossima. Ciao, ciao, ciao. Ed eccoci tornati in onda dopo l'ascolto di 100, il pezzo... Niente, Alessandro Brumma Montemagno ha sbagliato pezzo. Ma non è colpa mia. No, ma è sempre un gran pezzo. Era L'ultimo giorno sulla terra, che è un altro dei miei tre pezzi preferiti di questo album. Quindi ti sei salvato in fallo, come disse Rocco Siffredi. Sono tutti belli i pezzi. Guardali, come sa, come se, se ne vuole uscire dal problema. Te sei scartro forte, oh, te possino. Va bene, siamo sempre in onda. Sono le 19.20 del 19 settembre 2012. Vi ricordiamo i contatti, ogni tanto è giusto ricordarli. facebook.com/londainonda con la L, non smetterò mai di ricordarlo, e twitter.com/ondainonda. Il bello è che voi ci ascoltate, però oddio, se ci fosse un quei noto che ci scrive qualcosa sulla perché pagina, perché sono pigri, e voi toglietevi questa pigrezza e invece cominciate a scriveri, a scriveri, a scriveri. Ecco, è partita la seconda la seconda parola del giorno. E beh, è un po' come quel giorno in cui Andrea iniziò a dirne di tutti i colori, non si può sapere mai ma che è? Ma che succede? Cosa sta succedendo? Non capisco. Chi è? Non è capo. Ci sono le mucche in radio. Scusate, ragazzi. Ma chi è? Ma non ho idea. Scusi, lei chi è? Mi sono venuto qua per trovare quello lì, Andrea. Lo volevo incontrare. Ma non c'è Andrea. Ma io non ho idea neanche di chi. Infatti, lei entra qui in radio. Ma poi la smette. Cos'è questa cosa? Niente, un metodo di richiamo. Lui, abbiamo un accordo. Appena sente questo rumore, sei subito fuori. Scusi, ma lei, innanzitutto, cioè, non abbiamo ancora capito cosa vuole da Andrea e chi è lei. Ma niente, io sono stata evocata da Andrea qualche puntata fa. Allora volevo venirla a trovare. Aspetta, compa, Andrea. Ha detto che è stata evocata Andrea. Evocata, poi è uno spirito. Esatto. Cos'è? Ma forse mi è venuto il dubbio. Scusi, può dirci come si chiama? Devo proprio. Ma sì, se glielo stiamo chiedendo, entra nella nostra radio, è il mio. Ma io sono Vara, Vara Minier. Ciao, ciao a tutti. Ah, ma abbiamo capito tutto allora. È venuta a trovarci. È proprio lo spirito di Andrea che si è impossessato di me ed è venuto a trovarlo anche Vara Minier. Ha fatto la rima, arrivederci. Sì, vada. Lei è il suo campanaccio. Che poi viene quando giusto non c'è Andrea. Sì, esatto, arrivano così e insomma non puoi farci niente. Sì, perché la nostra radio, dovete sapere, che è di passaggio proprio. Sì. È una radio dove passano tutte le strade del mondo. Sì. Sì, da qui sì, passa chiunque. Tutte le strade portano al panorama, infatti il famoso detto dopo tutte le strade portano a Roma. E allora, salutiamo Roberta che ci sta ascoltando, almeno qualcuno insomma si fa notare. Qualcuno. Sì, esatto. E dopodiché volevo parlarvi di un fatto interessante. Per esempio il candidato alla presidenza della regione Gianfranco Miccichè, che ha dichiarato che l'aeroporto Falcone e Borsellino non era il caso di intitolarlo a Falcone e Borsellino. Non è la prima volta che il grande capo... chiamarlo così e sti cazzi esce fuori questa storia qua, diciamo un po' più per fare audience che altro, però fa un po' rabbrividire il fatto che un siciliano che si candida alla presidenza della regione rabbrividisce all'idea che l'aeroporto del capoluogo di regione sia intitolato a due figure che hanno combattuto, e poi io non capisco, la mafia. Se un politico siciliano che si candida alle elezioni regionali siciliane dice una cosa del genere, non pensa che può andare a suo sfavore, favore. E vabbè, lì c'è il dubbio, cioè devi spararla grossa. Cioè, per esempio, è troppo grossa. E vabbè, ma allora l'hai saputo in America cosa è successo? Obama-Romney. Fino a due giorni fa Obama e Romney erano più o meno Obama sul 49% e l'altro 46-47%. Adesso Romney ha perso non so quanti punti, almeno 3 percentuali se non di più, perché a telecamere, secondo lui spente, ha dichiarato che non gliene frega niente di quella fetta di elettorato povera che vuole vivere come da parassita alle spalle dell'America. Ha detto: a me dei poveri non me ne frega niente. Si è praticamente ucciso con le sue stesse mani. D'accordo, lì lui non sapeva di essere ascoltato, ma ti stai candidando alla presidenza degli Stati Uniti, cioè non pensare che quello che dici resta lì. Sei in una stanza con altre 50 persone, qualcuno lo riferirà, qualcuno... Appunto, però lui almeno non sapeva, qui si è consapevole, qui è proprio lui che dice: mettetemi la telecamera qua, perché lui ogni tanto sembra quasi sicuro, parla è un po' grossissimo, io penso che l'aeroporto è un bel no, cioè capito, così, cioè lui prende, tu ti stai divertendo a morire su questa voce. Sembra, non so. No, perché lui siamo così. E quindi dico, cioè, a chi lo intitolavamo? A Johnny Stecchino. Cioè, qual è la figura a cui dobbiamo intitolarlo? Lui dice: non sono una figura che ricordi la mafia. Vabbè, allora, non lo so. Quindi, se si intitolasse in America un aeroporto, se forse già c'è, informatemi a Martin Luther King, allora vorrebbe dire che fa pensare al razzismo e non va bene. Ma che vuol dire? Cioè, se tu intitoli un aeroporto a una figura che ha combattuto il fenomeno mafioso, in questo caso, devi essere fiero. Sono due figure, due delle più grandi figure italiane. Ma assoluta, ma a livello mondiale, cioè, non so se mi spiego, una mia amica, credo gli sia successo in Erasmus, non so dove, comunque fuori dall'Europa, ha detto, parlando con una ragazza, io sono della Sicilia, sai cosa ha detto quella? Non è che gli ha detto la solita Sicilia, mafia. No, gli ha detto Sicilia, Falcone and Borsellino, great men, grandi uomini, cioè, voglio dire, ed è una che vive chissà da quale parte del mondo, infatti. Si vede che Michigan deve migrare per capire qualcosa. Va bene, credo che sia tempo di ascoltarci un pezzo e poi mandare un la... gran bel pezzo. E poi pubblicità, se non sbaglio. Sì, poi c'è la pubblicità. Sì, ci ascoltiamo anche come omaggio ai nostri colleghi della trasmissione Positive Vibration, uno dei pezzi più belli e famosi di Bob Marley quando ancora era insieme a The Wailers. Questo pezzo è tutto per voi e si chiama Could You Be Loved su Radio Panorama. Ascoltando l'onda in onda. M.O.P. Andy up in the fucking background. For the real niggas, you know me. Shout to Brooklyn, Queens, Long Island, Staten Island, Uptown, Harlem, the BX. All my real niggas with the 20 inches outside. You know what I mean? Fake niggas, get the fuck out and hold on to your shit. You know what I mean? Fun flex, one time for your motherfucking mind. One. Get him, get him, hit him, va Hell Boys Cap. Ecco, lui è Antonio Panzica. Sing Boys Rap. Versione rap. Scusate, ero Panzi Rap. Sì, dopo Panzicot, Panzi Rap. Panzi Rap. Panzi Rap. Scusate, mi sto ricomponendo. Aspetta. È bellissimo perché nelle pubblicità, sì, per questo vogliamo la webcam. Vogliamo la webcam. Vogliamo la webcam. Durante la sì, pubblicità e durante le canzoni, sì, qui dentro succede di tutto. Sì, però non puoi proprio esattamente dire tutto. Anche perché siamo in te da soli, cioè. Però pensa nella replica notturna, cosa potranno pensare. Infatti la replica notturna si chiama L'Onda in Onda Hot. Sì, vi inondiamo, non possiamo dirvi di cosa. Va bene, torniamo. Vi inondiamo. Di vino. Allora, con questa voce semisuadente vogliamo indicarvi cosa fare stasera a Sai Palermo. Mi ricordi? Sì, dimmi. Il mio navigatore satellitare, cioè la voce, cioè voce quando scegli la lingua. Maschio, cioè, italiano, no, italiano. Sì. Italiano sexy. Non ci credo. Non sto scherzando. Questo sarà un coso che hai aggiornato tu da internet. No. Veramente. Non sto scherzando. Sì. Italiano sexy. Metti italiano sexy e la signorina, quando tu sali a bordo, ti dice: benvenuto a bordo. Con questa voce, cioè, sei tu, cioè, sei la signorina del navigatore. Io immagino lei che ti dice: benvenuto a bordo. E tu, cazzo, mi sistemo i capelli, sì, può essere, aspetta, che mi vede un attimo, cazzo. Comunque, allora, dicevamo, cosa volete fare stasera a Palermo e dintorni? Bene, abbiamo la festa di liberazione al Giardino Inglese dal nome Palermo Libera Tutti. Ed è la frase appunto che introduce questa festa in programma al Giardino Inglese da venerdì 14 a domenica 23, ingresso libero. Poi abbiamo il flash mob, un'esplosione di verità, a piazza Vittorio Emanuele Orlando di fronte al Palazzo di Giustizia. È un'iniziativa spontanea e pacifica che è già avvenuta alle ore 14, quindi un baconto chiù. Scusate, non mi ero reso conto. È stato sensazionale. Vabbè, però è stato bello perché è tutto, io guardavo dopo, cioè, l'avevo visto che era già. Ok, poi se volete invece diventare colti, andate al Teatro Massimo. Tanto tra poco forse ci collegheremo con Tom Di Petto. E per la prima volta a Palermo il celebre allestimento della Badama. Della Badama, compare. La Badama Matte. Che è la badante della Madama. Di Vara Menier. Di Vara Menier. È la badante di Vara Menier. No, no, la Madama Butterfly nel celebre allestimento firmato da un maestro del tesoro. Ma perché sono posseduto da Andrea? Come beni Montresor, i prezzi del biglietto vanno da 15 a 125 euro stasera. Quanto? Appunto 125. Credo siano le prime platee, insomma. Okay, comunque 125 euro sei sul palco con gli attori. Sì, sì, proprio reciti. Cioè ti danno il copione poco prima e reciti. E poi vieni anche stipendiato, però inizialmente paghi. Ma sei come, guardi, noi le diamo 10.000 euro, però intanto ce ne dia 1.000. E poi sono già nello Zimbabwe dopo 5 minuti. Poi abbiamo il concerto dei Taligalè, che avrei voluto fare dire ad Andrea, che però non c'è, alle 21.30 a Piazza della Regione a Villa Abate. Questo è il concerto dei Taligalè, ingresso libero. Poi vediamo qualcos'altro di interessante. La proiezione del film Obaba, regia di Monxo Armendariz. È una storia ambientata a Lourdes. No, scusate, è una ragazza di nome Lourdes che intraprende bellissimo un viaggio per Obaba, però poi scoprirà che in realtà si chiama Obama. Avrà sbagliato tutto. No, questa l'ho detta io. Ovviamente ore 19, ingresso libero all'Istituto Cervantes di Palermo. Penso bellissimo che noi diamo le sì, ma io penso gli eventi e poi prendiamo per il culo pure gli eventi. Tra l'altro, cioè, se ci hanno ascoltato, minimo abbiamo un 3 querele domani. Minimo. E poi abbiamo un DJ set alle 19.30 al Violet di Palermo con il mio carissimo amico Nunzio Borino, Carlo Tarantino e Riccardo Giambertone, in una serata tutta dedicata al vinile. Ne hanno fatto già una con grande successo qualche sera fa al New Art Café di Via dell'Alloro. Stasera saranno al Violet di Palermo, a sa partire dall'aperitivo. Eh sì, sì, sì, anzi saluto Nunzio, spero che ci stia ascoltando. Addirittura c'è un ragazzo che ci propone Vivendo la mia webcam. Ci sono offerte, visto che noi salutiamo Ciccio. Salutiamo Ciccio, detto anche Francesco, detto sì, detto anche Francesco. Ah, anzi scusa. Salutiamo Ciccio. Basta perché è serio. Francesco serio. Va bene, dopo questa porcata ulteriore, abbiamo detto tutte le notizie, ci spariamo un grandissimo pezzo. Un grandissimo pezzo, lo diciamo a Ciccio perché Ciccio sì, sei bella. Addirittura guardando qui il pezzo si chiama Bella ed è dei Bella. In realtà è di Jovanotti, se non sbaglio, contenuto nell'album Qualcosa. Ascoltatevelo da Radio Panorama. Yeah. Gira, gira il mondo, e gira il mondo e giro te. Mi guardi e non rispondo, perché risposta non c'è nelle parole. Bella come una mattina d'acqua cristallina, come una finestra che mi illumina il cuscino, calda come il pane, ombra sotto un pino, mentre da lontani stai come forever. Lavoro tutto il giorno e tutto il giorno penso a te, e quando il pane forno lo tengo caldo per te. Chiara come una bici, come un lunedì di vacanza dopo un anno di lavoro. Bella forte come un fiore, dolce di dolore, bella come il vento che t'ha fatto bella. Amore, gioia primitiva di saper viva, vita piena giorni e ore, batti cuore pura, dolce ma riposa, nuda come sposa, mentre da lontani stai come forever. D'acqua cristallina, come una finestra che mi illumina il cuscino, calda come il pane, ombra sotto un pino, come un passaporto con la foto di un bambino. Bella come un tondo, grande come il mondo, calda di scirocco e fresca come tramontana. Tu come la fortuna, tu così opportuna, mentre da lontani stai come forever. Bella come un'armonia, come l'allegria, come la mia nonna in una foto da ragazzo, come una poesia, oh Madonna mia, come la realtà che incontra la mia fantasia. Dedichiamo a tutte le belle questa canzone. Sì, esattamente, ma anche a quelle che si sentono belle, ma che belle non sono. Perché alla fine, come diceva qualcuno, non è bello ciò che è bello, ma che bello, che bello, che bello. No, non è che bello ciò che piace, la diceva credo Nino Frassica, se non sbaglio. Benissimo, siamo ancora qui, o almeno noi ci siamo, speriamo ci siate anche voi, non speriamo. Vi siate devastati le palle. E allora siamo su facebook.com/londainonda, naturalmente non lo ricordiamo mai, ma siamo anche su Radio Centrale. Radio, come si chiama? Panorama. L'ha detto, ah, l'ha detto. È sempre Antonio Panzica, l'ha detto. Direttore non succedeva da tanto tempo. Aspetta che andiamo dietro. Allora siamo sempre su radiopanorama.eu o.info, potete seguirci lì. Chi ascolta Radio Centrale è un figlio di maiale, ecco. Così ora arriverà anche Radio Centrale, anche tutti quanti insomma vogliono fare il jazz. Perché mi stai... io mi diverto da morire. Sì, lo capisco, io mi diverto da morire soprattutto a condurre da questa stanza fresca, cioè proprio se c'è fresco ariata. Sì. Qua dentro ci sono i pinguini tra un po'. Sì, io ho visto Bruma entrare nella pubblicità, nella zona mia, diciamo al mio hotel acquario, e dire ma non si può stare. Ma perché l'acquario qui è climatizzato, cioè, ma tra l'altro se chiamandosi acquario stavo valutando di riempirlo d'acqua fresca, almeno conduco senza sudare. Sì, no, perché credo sia ormai l'ultimo metodo. E ricordiamo che abbiamo amici un po' strozzini, perché ci ha taggato in un evento. No, ecco, Francesco Serio invita 500 euro trattabili per la web. Come la vedi? Non lo so, vediamo. Dico, non è male, non è male. Noi non possiamo concludere affari. No, infatti non possiamo, assolutamente non possiamo. Allora, vediamo se c'è qualche altra notizia. Io odio quando tu fai questa cosa, ti odio cordialmente. Comunque, allora, hai saputo quello che è successo a Roma? Che è successo? Secondo me c'entra Andrea. Io questi, quando si tratta di parole sbagliate, secondo me lo zampino del nostro collega ormai defunto c'è sempre. Anzi, ricordiamo. Stiamo tirando da silenzio, morire. Ricordiamo Andrea. Sì. Bene, benissimo, così. Allora praticamente sì, abbiamo abbastanza ricordato. A Roma, sul palazzo dell'Istat, hanno fatto dei lavori di restauro, no? Allora, c'erano delle scritte in latino. C'è stato un piccolo problema, le hanno sbagliate tutte. Come le hanno dopo il restauro, tutte? Esempi, c'era scritto et unc, è diventato eto.unc. Eto.unc. Ora, o era un sito, non so, sarà il figlio di Eto, Eto, non lo so. Boh. Eto.unc. Sì, istit.utem. Era istituit, diventato istit.ute. Vorrei capire cosa c'entra. È libera interpretazione in latino al sì. giorno d'oggi, a quanto pare. Diciamo che l'Istat è stata. C'è Vara che c'è sta. Vara, come stai? Scusate, sto cercando Andrea, mi sono confusa. Cioè, fatto... che gira, studi. Vedi cade. Di non fare tutto questo. Manicomio incredibile, cioè vedi di evitare. Comunque l'Istat è rimandata in latino, sicuramente, insomma, okay. Non ha fatto una gran figura. Ma adesso possiamo dirlo, anche se è strano che lo debba presentare io, visto che ero abituato. Ma oggi tocca a te. E vabbè, ma allora tu intanto lo vai a chiamare sì, e io sì, lo presento. Lo chiamo. Bene, stiamo per ospitare ormai per la, credo, almeno 40esima volta. Sì, è l'ospite forse d'onore. Sì, credo che insieme al presidente Napolitano, che oggi non sappiamo se potrà salutarci, sia l'ospite più longevo della trasmissione L'Onda in Onda. Ebbene, è con grande piacere che invito un uomo che ha perso la sua carriera di medico, ma ne ha guadagnata una da, diciamo, divulgatore di ricette calabresi. Dopo aver ucciso un uomo per aver dato la ricetta sbagliata all'anduia, soffriva di ipertensione maniglia, per lavare l'onta, come direbbe Andrea, il nostro buonanima, di quel fatto, adesso lui, radiato dall'albo dei medici, va in giro a dire le ricette della cucina calabrese. A voi e per noi, Tony Scopelliti. Buonasera Tony. Buonasera a tutti. Io stai buono. Ma sappi che qualcuno sta tanto buono. Ho con Andrea, sempre che morì. Ah, sì, capita. Ma come capita? Cioè, nella stava così, poi ti capita. Io pensavo che era un amico, non era solo uno che è. No, è il presentatore. Cioè, mi manca uno che ha attaccato cucciato che mi fa due anni. Poi a cucciugno, gli spettoni a cucciugno. Ci danno belle tempo, il vuoto adesso. Ora c'è il mio microfono, pum, e chi sei prima? No, che si rompe. Si rompe, Tony, allora non è giusto poi l'appavere. Come state? Cioè, prestate. Io bene. E Antonio, non ne sei lì. Antonio è uscito un attimo. Ah, due secondi fuori. Ogni volta quando c'è io indo se ne vai. No, perché non è stato tanto simpatico. Ma come non sono tanto simpatico? No, è per non me a pelle, a pelle. A pelle. Io te ne andicchio, faccio diventare a pellet. Cioè, sai chi dove mettere il nuovo camino che si è ruma? Si è ingornuto. Allora, oggi vi portai un bello primo. Che ci ha portato? Un primo? Un primo che proprio vi fate una cena leggera, però nutriente. Ah. I maccheroni al forno. Ah, come? I maccheroni al forno. I maccheroni aru furno. Che sarebbero? I maccheroni al forno. Ah, ecco. Cioè, mi piace che questa sape. Lei è un sogno pratico d'italiano. No, lo io sappiamo, preferisco lo sempre sappiamo. Il calabro, che è una lingua che ha una sua dignità. È una sua, diciamo, come dire, un losaccio. Allora, parliamo degli ingredienti. Ovviamente, quanti ci vuole? Stasera, quando siamo? Ma stasera siamo sempre. Stasera cioè, lei non sa quante siete. Non io parlo della sua famiglia. Nemmeno in tre siamo. No, mangiamo qua stasera. Ah, quindi mangiamo io e lei. E no, Antonio, lei ora se ne va. C'è ah, Antonio. Mangiate lei, lei vuole rimanere qua a cena. Cioè, io cucino e lei, ma come fa a no, mangiare? Ma lei non sta cucinando, lei dà le ricette. Mi sta sentendo male, mi manca sciato. Poi non posso mangiare. No, no, Tony, non si senta male. Va bene, allora. Pure lei va bene, c'è Cristiano. Io, siccome mangio che sei guati, saranno porzioni un po' più grandi. Allora, ci vuole intanto 10 kg di pomodoro. Sì, poi? Se poi mi stavo concentrando. Ah. Poi ci vanno 25 kg di capocollo o guanciale. E non deve fare 25, io sono 3 picchi, 15, mi fotto io e 10 in 2. Ah, ecco, quindi lei ha la parte più sostanziosa. Più sostanziosa. Poi pigliamo tanto aglio. Tanto. Infatti domani, se potete, non lavate i denti tra stanotte e domani, andate a trovare qualcuno che vi sta un poco, diciamo, sulle scatolicchie e ci da dire buongiorno, come ti senti stamattina, Gemia? E bene, che dopo due minuti ho camposando insieme alla tante. Sicuramente. Poi prendete tanto prezzemolo e fenocchio. No, che era una cosa che dicevo quando ero amico. Ci vuole per forza. No, non è per forza, però mi ricordo che si diceva occhio e malocchio. Prezzemolo e fenocchio. Va bene, e poi abbiamo. Che poi pensavo che era prezzemolo e fenocchio, cioè prezzemolo di Nore Gardaland. No. Un aid. Mirabilandia? Sono due. Due prezzemoli? Due. No, un prezzemolo e un finocchio. Ah, sono due cose separate. Vabbè. Poi ci vuole una bella cipollata russa di giopere 4 tonnellate che danno il record del mondo. Ah, e dove la troviamo? E a Chirino Guinness World Records, piglio un libro, chiamo il numero. Records. Records. Che... In calabrese è Records, che vuol dire anche un re delle cozze. Ah, certo. Certo, vabbè, tu utilizzi. Poi ci. Scusi, non ti chiedo. Si concentri per la ricetta. Poi ci vuole un bello peperone rosso peccante. Che du buono, che du, che du. Non si può piccante. Ma che du peccante proprio, che du calabro, che du zanzero, che du chino, va. Poi ci vuole olio d'oliva, almeno un 3 vasche. Vasche? Sì, proprio tipo i gebbie. Ah, i gebbie. Proprio chi... Spero, cioè, ascoltatori, le gebbie sono delle dei recipienti. Ma guarda che gebbie non è siciliano calabrese. Cretino, sanno tutti cos'è una gebbia. Avanti, con sapi con una gebbia lo scrivisse sull'onda in onda. Scrivete quindi, amici dell'onda in onda. Se non sapete cos'è una gebbia, scrivete cos'è la gebbia e noi ve lo diremo. Cioè, Tony, vi risponde a Tony direttamente. Rispondo io. Poi ci vanno un chilo di cacio e un chilo di cavallo. Quindi, cioè, nel senso che ci vuole un po' di formaggio e un po' di carne di cavallo. Non è cacio cavallo, è cacio e un po' di cavallo. Va bene. Poi ci vanno 30 uova, di cui 5 potete rompere, quindi ne bastano 25. E poi ci vanno 3 kg e mezzo di carne tritata e la molle che è bene. Ah. Adesso dovremmo partire col procedimento. Prego. Preparate una salsa con mezzo bicchiere d'olio e poco ciotto di maiale. Allora voi direte: ma com'è che ci volevano le gebbie? A me non me ne fotti. Era per vendere la prossima non volta. Non ha detto di prendere carta e penna. Gli ascoltatori, prendete carta e penna e scrivete tutto. Preparate una salsa con mezzo bicchiere d'olio e poco ciotto di maiale. Voi direte: ma com'è che mi disse di pigliare due gebbie e olio e non pigliare mezzo bicchiere? Perché vi serve per le prossime volte. Usarbaggio. Poi pomodori pelati, quindi mi raccomando, gente avanzata in età, perché se non ci cari capite. Cipolla e prezzemolo e fenocchio tritate. Date di capicollo o guanciale. Quindi poi vi curcate, visto che c'è guanciale, aspettate che riposa la carne. Uno spicchio d'aglio e uno sticchio d'aglio. Pepero. Tony. Come ricordo poi sticchio. No, perché sai, c'è una volta. In calabrese si dice. Allora, in calabrese ci sono due cose. Si può dire spicchio o sticchio. Capito? Quindi mo confondo. Ah, poi ha due utilizzazioni. Esatto, anche questo ha due utilizzazioni. Allora, poi peperone rosso piccante spezzettato. Poi se avete un amico un po' cusciuto, ci fate mangiare un peperone sano e vedete come vi scoppa in terra. Fate soffriggere il tutto e aggiungete solo in un secondo tempo, almeno 8 ore dopo. Quindi stanotte mangiamo, cioè all'alba mangeremo. Quindi non è per la cena. No, è per l'alba. Lessate in abbondante acqua. Lessate è un termine importante, dovete lessare. Cioè c'è il verbo leggere, questo è l'essere. Va bene, voi quindi lessate. Io lesso, tu lessi e gli torno a casa. Poi, abbondante acqua dei maccheroni, spezzate con le mani. Se siete, diciamo, amputate, tipo di guerra, fate spezzare a un vicino di casa. Ovviamente. Che una volta cotte sistemereta. Questo è scritto nella ricetta, sistemereta. Pare tipo a Batanduono, presente quando dice mi cazzonava la mente. Comunque, astratte da condire con la salsa e con spargerete di pecorino grattugiato. Pezzetti di caciocavallo, fettine di uova sode, polpettine di carne. Preparate con carne, aglio, prezzemolo tritato, mollica di pane, un uovo intero. E dopodiché monflate in un forno e poi mangiate. Vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata. Grazie a te. Viva la Calabria, viva la Sicilia, viva il sud. Ciao Tony, ci ascoltiamo Snow con Informer. Hey, yo, what's going on, yo? Sick and tired of 5-0 running up on the block, you know what I'm saying? Yo, Snow, they came around looking for you the other day. Word, bust it. Informer, you know, say that I'm a snow, me, I go glam. I like you, boom, boom, bam. Take the man that says, say that I'm a snow, me, stab somewhere down the lane. I like you, boom, boom, bam. Informer, you know, say that I'm a snow, me, I go glam. I like you, boom, boom, bam. Take the man that says, say that I'm a snow, me, stab somewhere down the lane. I like you, boom, boom, bam. These are them, I don't call me, now they blow down my door. Rainy car part through my window, so they put me in the back the car at the station. From that point on, I reached my destination. Where the destination region out of east attention. Where the look down my pants, look up my bottom. So informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I like it, boom, boom, damn. Take the man that says that I'm a snowman, stop somewhere down the lane. I like it, boom, boom, damn. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I like it, boom, boom, damn. Take the man that says that I'm a snowman, stop somewhere down the lane. And they keep on bomb down, so big on them, they think they have more power. They on the phone, me say they want a warm. If I want to use it once, and now me call me lover. Love who be calling on the one tell me. I me love you, my heart down to my belly. Yes, and I'm a snowman, I feel cool and deadly. It's the one MC Shine and the one that is snow. Together we all have a Mr. Tornado. Informer, know say that I'm a snowman, I go play him. I like you boom boom damn. Take the man that say that I'm a snowman, stab somebody down the lane. I like you boom boom damn. Informer, you know say that I'm a snowman, I go play him. I like you boom boom damn. Take the man that say that I'm a snowman, stab somebody down the lane. I like you boom boom damn. So listen for me, you better listen for me now. Listen for me, you better listen for me now. Bring me the rubber, the rifle, the foam, the rock and steady. You see that I'm a snowman, you have the heart to cut on. But I'm not in and I have the dance, I mean say where you come from. People them say you come from Jamaica, but me born and raised in the ghetto, don't know what you have to know. Pure brown people, man, is all a man know. Yeah, my shoes are them tear up and my toes just a show. With me, you're born and other ones you're on too. So informer, you know, say that I'm a snowman, you go glam. I like you boom boom damn. Take the man that say, say that I'm a snowman, stop somewhere down the lane. I like you boom boom damn. Informer, you know, say that I'm a snowman, you go glam. I like you boom boom damn. Take the man that say, say that I'm a snowman, stop somewhere down the lane. I like you boom boom damn. Come with a nice young lady, intelligent, yes, she drunk all in Ari. Everywhere me go, me never left for a tally. You say that I snow me, I the rum dance man. Rum it in a dance, I lean in a nation. You never know, say that I'm a snow me, I the boom shaka. Tell me never lay you down, fretting, now I'm can't go down. You say that I'm a snow me, I go reaching at the top. So informer, you know, say that I'm a snow me, I go glam. I like you boom boom damn. Take the man that say, say that I'm a snow me, stop stumble down the lane. I like you boom boom damn. Informer, you know, say that I'm a snow me, I go glam. I like you boom boom damn. Take the man that say, say that I'm a snow me, stop stumble down the lane. I like you boom boom damn. Why worry? Why worry? In worry, in worry. Man, sitting round cooling with my dibby dibby girl. Police knock my door, lick up my pal. Rough me up and I can't do a thing. Pick up my line. E ci siamo ascoltati un gran pezzo, devo dire, quando Brumba l'ha messo e insomma ha staccato i microfoni, ha detto beh, questo è un pezzo storico, ho detto ma chi lo conosce? Appena è partito, insomma, ha detto gran pezzo, in effetti, non ricordavo il nome. Non ricordavo il nome. L'hip hop. Scusate, io intanto sto ruttando le patatine. Come si chiamano? Le mini sticky? Le mini sticky. Che saranno anche queste di, sì, di Tony. Mini sticky. All'aglio. Che ci sono? I spicchi d'aglio. Io ho mangiato il gelato all'aglio. E non è una battuta, a Venezia. Ed era buono. Oddio, non è che è proprio il gusto che prenderei ogni volta che vado da Cicciuzzo, se lo avesse, però intanto pubblicizziamo Cicciuzzo. Salutiamo Cicciuzzo. Salutiamo, ci deve già 50 euro per questa marchettona. Attenzione, abbiamo qualcuno che ci segue e ci dice, io ci sono, forza ragazzi, manco fosse la finale dei mondiali. Allora, vediamo, collegati dai nostri maxi schermi, vediamo. Attenzione, Lisa Rasu, Calamaro, Totti, Francesco Totti. Ogni tanto Lisa Rasu non gioca più da almeno a passi per Patti. Ogni tanto ricompare anche Bruno Pizzul. Comunque salutiamo Chiara, che ci incita al forza, ragazzi. E salutiamo anche Gloria, che si è divertita dall'inizio alla fine. Sta ridendo come una pazza, forse sarà su un'altra radio. Meno male che si è divertita dall'inizio alla fine. Secondo me sarà su un'altra radio. Sì, secondo me sta ascoltando 105 Friends. Si sta realtà, divertendo da morire. Esatto. Comunque salutiamo Gloria, Roberta, Chiara, Emanuela e diamo i loro numeri di telefonino. Allora quello di quello di Chiara è ovviamente carta 3, tutti. Carta e penna. E dal primo autogrill in cui passate, mi raccomando, nei bagni scrivete aspetto uomini e il numero. Va bene? Uomini col numero. E poi aspetto uomini col numero. No. Quindi si presenta col numero, uomo numero 3. Esatto, magari col numero 30. Il buon Rocco, per esempio. Vedi che alla fine l'argomento principale è sempre il sesso. Ma guarda che, ascolta, pensa una cosa. I tre motivi per cui si uccide sono follia, denaro e sesso. Sono questi i tre motivi. Se tu ci giri attorno, sono sempre quelli. Cioè poi tu dici, no, ma quello poi lo riconduci all'amore, cioè al sesso, lo riconduci al denaro, lo riconduci alla follia. Ma sparte tutto, parte tutto da... Sparte tutto, sparte. Cioè che non sapevo se vuole dire, ma sparte, ma cioè addirittura sparte. Sparte. Sparte, sparte Praghe. Allora, che è una nuova squadra. Allora, senti, notizie. Lady Gaga sul palco del concerto di Amsterdam si è sparata un cannone. Così, papam. No, perché gliel'hanno proprio tirato. Cioè, lei, sul palco. Giustamente, che lei fa? No, no, lei sai che ha fatto? Butta. Le hanno tirato sigarette, le hanno tirato da qualunque. Lei vede le sigarette. Ma, scusa, perché le hanno tirate? Perché? Ma perché sai quando... male. No, perché volevano dare. Era una sigaretta accesa, magari. No, accesa. Il pacchetto, cretino. Ah, non è cretino. Gli tiro il pacchetto di sigarette, magari. No, era proprio perché erano molto presi dal concerto. Sai come Amsterdam non è esattamente Bauchina. Ovviamente. Salutiamo mia madre che è di Bauchina, tra l'altro, con tutto il rispetto. Ali Minusa. Salutiamo lo zio di Peggiziano. Milano. Tutti i paesi limitrofi. Sì, sì, sì, limitrofi. Beh, diciamo che lei ha ricevuto dei pacchetti di sigarette, le ha odorati, no, non va bene, perché erano semplici sigarette. Appena ha ricevuto però il cannone incartato, lei fa, oh yeah, this is good. E lì il delirio di tutto il pubblico, lei l'ha acceso. E se l'è fumato. Ma perché è Amsterdam? Anzi, ha detto che le canne, la cannabis in generale, tutto quello che ha fumato, l'hanno aiutata a diminuire le quote di alcol, le danno ispirazione per i suoi lavori. Beh, hai saputo che è curativo. È curativo, assolutamente. In alcuni stati viene utilizzato legalmente come curativo. Certo, non credo Lady Gaga abbia grossi problemi di salute, però anche quella può essere una cura dell'anima, magari una cura dell'anima, degli mortacci sua, direbbero a Roma. Ebbene, ebbene, sì. Ma... va bene. Io direi che forse arriva il momento di lanciare la pubblicità? No, prima ci ascoltiamo Sean Paul. Ah, ci ascoltiamo. Aspetta, ci ascoltiamo Sean Paul in So Fine. Yeah, yeah, yeah, yeah. You be my wind chime, I got the rhyme. We'll have a good time, make up your mind. Roll with me, girl, you're so fine. Girl, girl, girl, just let me be there for you anytime. It's so fine. For you, I join the longest line. It's so fine. My girl broke out and wine. Wash up my brain and wash up my mind. Make bad man out that shit and nine. I'll be your sunshine, my girl. Just let me be there for you anytime. It's so fine. For you, I join the longest line. It's so fine. My girl broke out and wine. Wash up my brain and wash up my mind. Make bad man out that shit and nine. I'll be your sunshine this time. My girl, if you want, just call me. Anytime my love life start get corny, we keep it steam up and stormy. Me and you team up and build a army. Come and love off the shape of your body. I'ma know say you want come party. If you know say you want me target, girl, I'll be that doggy, doggy. Sexy chick, that's my prerequisite. Hot girls gotta be my darling. Get with it, my beat, if you step with it. All girls gotta eat my calling. From Kingston up to New Orleans, New Jersey right back to Spalding. You fi know this boy ain't stalling. We put in all in. Just let me be there for you anytime. It's so fine. For you I join the longest line. It's so fine. My girl broke out and wine. Wash up my brain and wash up my mind. Make bad man out that show them nine. I'll be your sunshine, my girl. Just let me be there for you anytime. It's so fine. For you I join the longest line. It's so fine. My girl broke out and wine. Wash up my brain and wash up my mind. Make bad man out that show them nine. I'll be your sunshine. Listen my voice, listen my vocal. Lock off your phone so your man don't call. I'm gonna give you this love total. Medical and it's antidotal. Oh yeah. Cause we are the top pro girl. International or local. Your man don't got it like me, none at all. Cause your man don't firm and your man don't tall. Him a broke out the diamond and the opal. Him a try by love but now the love stall. Look like him don't have no hope at all. Him not come good with the approach at all. Hang him up like picture in a photo all. Left him and go and find new protocol. SP or the man you call. I won't fall. Anytime is so fine. For you I join the longest line. It's so fine. My girl broke out and wine. Wash up my brain and wash up my mind. Make bad man out that's where them nine. I'll be your sunshine, my girl. Just let me be there for you anytime. It's so fine. For you I join the longest line. It's so fine. My girl broke out and wine. Wash up my brain and wash up my mind. Make bad man out that's where them nine. I'll be your sunshine. I'll be your sunshine. You can be mine. You be my wind chime, I got the rhyme. Yeah. We'll have a good time, make up your mind. Roll with me, girl, you're so fine. Girl, just let me be there for you anytime. It's so fine. For you, I time the longest line. It's so fine. My girl broke out and wine. Wash up my brain, you want my shaman mind. My bad man, I'll dance with them nine. I'll be your sunshine this time. Just let me be there for you anytime. Sono le ore 20:04 minuti. I've been everywhere, man, looking for someone, someone who can please me, love me. Stai ascoltando L'Onda in Onda. Everywhere, man, looking for you, babe, looking for you, babe, searching for you, babe. Where have you been? Cause I never see you out. Are you hiding from me? Yeah. pezzo spacca. Buonasera. Ma chi è? Ma perché? Liberate le vostre anime. Ma chi è? Dalla dannazione di questi pezzi del demonio. Ma non sono pezzi del demonio. Ma poi sì, lei chi è? Io sono Fra Indovino. Fra Indovino. Cioè devi indovinare tu chi sono io. Ah, quindi è Fra Indovini. Sì, non sono bravo con l'italiano, ma senso è quello. Sarà fra... sarà fra poco, perché vengo fra poco. E dopo questa immensa porcata di fra poco, un nuovo personaggio. C'è chi ci vende per pazzi. Sì, assolutamente, va bene. Allora, abbiamo già in linea il nostro amico? No. Ah, hai preparato la sigla, allora chiamalo nel frattempo, perché tra poco avremo... È presto. No, non è presto, sono le 20.07, lui sapeva per le 20. Ma qual è il problema? Va bene, ok. Allora, nel frattempo che tu provi a contattare l'uomo della rubrica... cult di questo programma, stiamo parlando ovviamente della rubrica film brutti, dove ogni settimana Marco, appunto, che è il titolare, colui che ha inventato questo sito, ha deciso di creare perché bellissimo. Il regista mi fa segno di andare piano. Allora, niente, parliamo. Allora, di cosa parliamo? Io mi sto per laureare in medicina e chirurgia. Ho detto parla, parla. Ah, parliamo. Di qualcosa di utile alla comunità, Antonio. Ah, devo? Ah, cioè, ah. Devo c'è proprio. Qualcosa di utile all'umanità, no? Qualcosa di utile all'umanità. Vediamo. Ecco, guarda. Ecco. Guardala. Fa un'orgia contro i uomini, poi si penta e denuncia. Mi hanno violentato. Mi hanno fatto troppo male. Sì, aveva dichiarato di aver subito degli abusi sessuali. Vedi che alla fine si parla sempre di sesso. No, e invece io non ci sto. Ora io cerco una notizia che riguarda la borsa. Perché? No, proprio adesso. Borsa di Milano. E allora, le quotazioni, perché non ne funziona un po' più di questo. Onda in onda, l'unico programma che dà anche le quotazioni in borsa. E allora, buonasera Brumma, siamo collegati qui da Piazza Affari a Milano, siamo collegati allora all'indice FTSMB, all'ultimo valore 16.123 con una variazione dello 0,15% in positivo. L'FTSE Italia Mid Cap al 17.602 più 0,7%. Uè Cina, c'è proprio lo chiamo, uè Cina, come stai? Allora, ABI avvia il nuovo comitato di presidenza. Abbi cura di te. Abbi cura di te. Cura di te. Borsa, il bazooka di Tokyo non basta a ridare forza. Milano più 0,15%. Mercati, dati macro italiani ed esteri di domani. Ma così. È così, noi... Ma sì, Nasdaq 100, valore 2863,15, variazione dello 0,20%. Scopri come puoi trarre vantaggio dalle fluttuazioni del mercato ovunque ti trovi. Stiamo sparando una marea di vacche. È un momento di radio verità, oserei dire. E invece vogliamo ricordare un attimo, visto che abbiamo sentito oggi dopo tanto tempo il buon Silvio Berlusconi, alcune delle sue frasi più celebri. Io sono l'uomo più perseguitato della storia. Gli italiani vedranno di che pasta sono fatto. Non sono malato, anzi sono Superman. Dietro le calunnie nei miei confronti c'è un progetto eversivo. E insomma, eccetera. Ma che sono? Che stai leggendo? Aforismi di Silvio Berlusconi. Il nostro amico Marco. Aforismi di Silvio Berlusconi. Stavo leggendo le frasi più importanti pronunciate dal... C'è un sito che riporta gli aforismi. Ma sì, pensieriparole.it, tra gli autori, cioè tutti trovi che so. Ma questo sito ci sono anche... Cioè, le sono frasi d'amore poeti, che hai usato sono, con le tue fidanzate, sì. Frasi anche di filosofi. Ma ci sono frasi di Oscar Wilde, di Shakespeare. Berlusconi. Di Marchiuse. E poi ti trovi Silvio Berlusconi. Dobbiamo mettere, allora scusa, facciamo un linkino. Un piccolo link. Allora, se siete a casa e potete subito alzarvi, linkinatevi all'istante. Un link, ci mettiamo Andrea Massaro con le sue citazioni. Esatto, che era una tautologia incartatrice da sola. Tra l'altro mi spiace molto che oggi Vara Menier sia venuto a cercarlo e lui povera, è caduta. Poverina. Va bene, invece abbiamo l'onore di avere in onda Marco, ma non possiamo fare nulla se prima non lanciamo la sigla dei film brutti. Credi di avere un'anima nera? Ti senti destinato alla dannazione eterna? Redimiti col film brutto della settimana. E allora benvenuto ancora una volta Marco, ciao! Ciao ragazzi, come va il vostro percorso di autopunizione? Guarda, io devo dirti che non so se hai seguito, forse non so se hai seguito prima o la scorsa settimana mancavo perché stavo preparando l'ultimo esame per la laurea e finalmente l'ho dato e quindi in questa settimana in cui appunto ho finito l'esame ho deciso di autopunirmi perché magari mi sarei potuto laureare prima, ci sono tanti motivi per autopunirsi e io ho deciso di guardare i film brutti che hai consigliato tu ultimamente. Adesso, molto bene. Adesso però ne voglio altri perché sto arrivando al momento fatidico proprio dell'esame di laurea e io voglio avere tanti bei film brutti da guardare, quindi diccene almeno un paio. Ottimo, allora diciamo nel farti diciamo i miei in bocca al lupo per questo importante momento. Crepi. Ti consiglierei sì. Innanzitutto il mitico Cannibal Ferox. Cannibal Ferox è uno degli esempi più fulgidi della filmografia cannibale Made in Italy, sì. Del grande Umberto Lenzi, che nel 1981 decide di superare il record di paesi di censura che è raggiunto da Cannibal Holocaust di Ruggero Deodato, sì. E produce questo meraviglioso Cannibal Movie nel quale veramente non c'è limite alla violenza alla barbarie su uomini e animali. Il canovaccio del film è classico, c'è una studentessa di antropologia che è convinta che il cannibalismo sia solo il frutto di leggende metropolitane dovute diciamo al colonialismo dell'uomo bianco, sì. Si avventura in una improbabile spedizione in Amazzonia in compagnia di un'amica piuttosto frivola appunto per dimostrare che le tribù primitive non praticano il cannibalismo. Purtroppo la realtà sarà ben più grave di quello che lei più pensa. Macabra di quello che lei esattamente, pensa. Sì, esattamente, sì. Praticamente la ragazza e i due amici con cui viaggia vengono rapiti dai cannibali insieme ad altri due loschi individui e poi comincia la barbarie, diciamo. Quindi immagino c'è tipo al mega splatter, sangue ovunque. Ma sì, ci sono veramente delle scene truculente che diciamo magari non sono consigliabili ai più sensibili. Cito quelle più clamorose che riguardano tutte il povero Giovanni Lombardo Radice. Questo film viene prima evirato con un colpo di machete veramente potente, sì. e poi praticamente gli viene scoperchiato il cranio che fatto che decreta la sua morte definitiva dopo numerose altre torture, sì. E poi vabbè la scena mitica del film è un Zora Cherova che viene appesa per i seni a due uncini. Mamma mia, dolorosissimo, anche se non abbiamo dei seni femminili, ma è dolorosissimo. Sempre riconducendo a Kate Middleton, sempre a Kate. Alle tettine. Sì, alle tettine di Kate. Abbiamo parlato delle foto di Kate Middleton, insomma, immaginiamo lei appesa, ma poi non possiamo dirlo perché la regina potrebbe subito querelarci, sai. Esatto. E dentro 20... magari, e tra l'altro sotto fuori da qualche tortura a livello... No, ma anche solo il fatto che se tanto mi dà tanto, noi entro 24 ore, brumma, dovremmo consegnarci a lei, altrimenti ogni 24 in più sono 10.000 sterline, sì, di multa. E non mi sembra affatto il caso. Io dico, penso che sia un gran film, io spero di vederlo anzi al più presto. Questo è veramente un grandissimo, sì. Film che gli appassionati non possono mancare. Assolutamente non si può mancare un film del genere. Va bene, hai qualche altra perla, magari così una chicca veloce, oppure ti eri preparato solo questo? Ma perché no, guarda, ti posso consigliare. Il film che ha decretato il fallimento definitivo della carriera di Steven Seagal, sì. Che è Last Night, Morte nella Notte, uh-huh. Un film in cui il nostro Seagal praticamente non riesce più a muovere un muscolo, ma comunque è a capo di una squadra che deve disinfestare un edificio da degli strani vampiri zombie, insomma. Praticamente lui si limita diciamo a fare qualche mossa con la katana, insomma, per muovere un po' così, per fare un po' di scena, pronuncia la prima battuta dopo 45 minuti di film, che il mio nome è Tao. E questa diciamo è diciamo il suggello della sua diciamo, partecipazione. Esatto. Poi tutte le mosse, tutti i calci volanti vengono lasciati ad un altro attore che diciamo sostituisce Seagal nelle scene action, perché in questo film Seagal è veramente imbolsito al massimo, completamente immobile, incapace persino di muovere la bocca, veramente incredibile. Unico. Un film da consigliare. Molto recente tra l'altro, che consiglio veramente a tutti perché vi regalerà molte soddisfazioni. Guarda Marco, siamo veramente commossi perché pensiamo a Seagal, pensiamo a quello del genere Cannibal. Va bene, allora che dirti, se non ci saranno impegni noi ti attendiamo come sempre, ti aspetteremo con ansia per mercoledì prossimo per un altro consiglio o due, come te abbiamo strappati oggi, di film brutti. E ti ringraziamo. Mi preparerò. Esatto, preparati per bene, salutaci la tua mogliettina che altolta purtroppo io non ho potuto salutare, sappiamo che però è intervenuta in diretta. Nostra tifosa, gridando, nostra sostenitrice. Esatto, gridando qualcosa tipo viva la Sicilia. Allora salutacela. Esattamente. Decore, decore, anche se decore è romanesco. Va bene, questo era Marco con i film brutti. Ti salutiamo, ci ascoltiamo adesso un gran pezzo che per ora è nelle orecchie di tutti e per soprattutto per un video satira favoloso, Call Me Maybe. Ancora qui con l'Onda in Onda, in diretta dagli studi di Radio Panorama a Termini Imerese. Abbiamo appena ascoltato i film brutti, Marco ne ha consigliati addirittura due. Un classico di Steven Seagal in cui dice la prima battuta dopo appena 45 minuti di film. E uno del genere Cannibal Style, diciamo, che ha raggiunto livelli di censura incommensurabili in quasi tutti i paesi del mondo. Sono le 20:20, mancano pochi minuti e credo che abbiamo finito. No, ci è venuto a trovare un altro nostro. Un altro alle 20:20. Eh sì, perché è arrivato tardi da lavoro. Da lavoro? E sì, chi è? È un artista internazionale. Forse ho capito, ma non diciamolo. Forse lui ha bisogno della musica, diciamo, per entrare, come tutti qui. Sì, infatti. Hanno bisogno. Ognuno ha la sua sigla. Cioè, anche campanello, Marco. Si personalizza il campanello. Se quando suonano loro. Se no, non si inseriscono niente. Cioè, no, non hanno bisogno proprio. Sentiamo un po'. Ah, capito chi è? Ha trovato lavoro lui? Ha trovato veramente lavoro. E allora diamo il benvenuto e un onore a Tom Di Petto. La donna immobile, qual piuma al vento, piuma d'argento e di pensiero. Tom, buonasera. Sono Tom. Veramente felice. Ma che è successo? Quando gli Hansen. Ma come? È morto Andrea, quindi quando gli Hansen. Ecco qui. Ma ci stava. Cade il pennello. È caduto il pennello, lo raccolgo. No, non c'è bisogno. Ha detto lei. Tom, come va? È due settimane che che non ci vediamo. Eh sì, è venuto Jerry. Tom e Jerry, sono contento, ho trovato lavoro. Ma davvero? Sì, dopo tante richieste qualcuno mi ha ascoltato. In un famosissimo teatro europeo, immagino. Più o meno, alle spalle. Alle spalle? Di un famosissimo teatro europeo. Si chiama Il Capo. Il Capo. Il Teatro del Capo. Ah, quindi dove lavora? Anche se il capo non l'ho ancora conosciuto. Lavoro al Teatro del Capo, quindi? No, lavoro al Capo. Dietro il teatro. Massimo, cosa fa? Aiuto a strillar per vendere da mangiare. La la la la la la la. Ma come aiuta a strillar? Cioè, esempio. Il suo compito qual è? Ci spata. Ma come? 40 euro chilo. Ma è caro poi 40 euro chilo. Facciamo 35. L'ho pescato ieri. Quindi lei è a Palermo a lavorare al Capo. Esatto. Come, non lo so, proclamatore. Esatto. Di merce. Ah, ma un gran lavoro. Sì, penso che pian piano tornerò al teatro. Tanto sono alle spalle. Ah, certo, quindi sta sempre vicino al teatro. Non ha abbandonato. Non abbandono, no. La zona è quella. Lei sta alle spalle. Alle spalle. E ricorda, se ti svegli con quattro palle, il nemico è già alle spalle. Questa è la citazione di Tom di Petto. Sì, questa è, è tratta dal Rigoletto. Ah, bene. Più letto che Rigo. Altro esempio. Ma, salsiccia, 8,90 euro. Siamo passati dal carnezziere. Sì. Ah, perché lei quindi gira in tutto il Capo. Sono eterogeneo. Ah, ho capito. Quindi, signori ascoltatori, andate tutti al Capo. Quando di pensieri. Se scusate, Tom si lascia andare. Scusate, volte. Ritorno alla donna immobile. Quando lavora? Tom, quando la possiamo alle trovare? Alle 6 di mattina. Alle 6 di mattina. Fino alle 2. Ah, quindi siamo 8 ore. Bene. Arrivo a casa, che ho le corde vocali grandi quanto il collo di un pollo. Ma come? Sì, però è un mestiere gratificante e faccio vendere da mangiare. Ah, bene, Don Mitripetto, io sono felice per lei. Anch'io, spero di tornare presto a teatro. Adesso ci vediamo alla Ballarò, cambierò mercato. Quindi, tutti a trovare a Ballarò a questo punto, Tom di Petto. E ricordate, con gli Hansen. Con gli Hansen. Arrivederci. Ciao Tom, ciao. È uno sclerato pazzo. Niente, totale, io veramente non ho parole. Impazzito, Tom. Senti, mi sa che c'è il tempo per l'ultimo pezzo. E dopodiché ci salutiamo. Ci salutiamo adesso con l'ultimo pezzo. Allora fai una cosa. Manda l'ultimo pezzo, però lo voglio bello sparato, bello forte. Bello forte. Facciamo così tutti i saluti per come si deve. Forte, ma tu fallo partire intanto. Facciamo partire. Esatto. Pezzo. Vi ringraziamo per averci seguito. Speriamo che vi siate divertiti. Yeah. Vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo. I nostri contatti sono facebook.com/londainonda, twitter.com togli la L, onda in onda. Lui era Bruma, io Panzi Cozzo, Andrea all'altro mondo. Yeah, yeah, yeah. Un grande Antonio Panzi Rap. Ragazzi, Antonio Panzi Rap e il Bruma vi ringraziano per averci avuto, per aver avuto la pazienza. Ringraziamo chi ci è venuto a trovare, ovvero Vara Menier, Marco dei Film Brutti, un Lorenzo sacco, delle Carte. E poi chi altro è venuto? Lorenzo delle Carte sembra. Sì. Sembra, sai cosa c'è? Il Jolly, la regina e Lorenzo delle Carte. Sembra lo zicchinittaro di turno. Poi chi abbiamo avuto? Silvio Berlusconi, Tony Scopelliti. Insomma, salutiamo tutti questi. Un passaggio veloce di Bruno Pizzul. Allora, noi vi ringraziamo per la pazienza. E vi lasciamo con questo sottofondo Kesha con Black and Yellow. E ci vediamo mercoledì prossimo, giorno 26. Ciao! You know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's not. When I pulled off the lot, that's done. Reppin' my town, when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I'm in black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Got a call from my jeweler, this just in. And women love me cause I'm messing with their best friends. Not a lesbian, but she a freak though. This ain't for one night, I'm shining all week, bro. I'm sipping Clico and rocking yellow diamonds. So many rocks up in my watch, I can't tell what the time is. Got a pocket full of big faces. Throw it up cause everybody that I'm with, Taylor. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that. thing. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down for no whip tie. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Stay fly like how I'm supposed to do. That crowd underneath them clouds can't get close to you. And my car look unapproachable. Super clean, but it's super mean. She wanna ride with them cats. Count stacks, get fly, take trips, and that's that. Real rap, I let her get. She want and she feel that. Convertible drop feel, 87 the top pill. Back, yeah. You know what it is. Yeah, yeah, you know what it is. Y'all already know what it is, man. If you don't, you should by now. Remember my time when you see me, you know everything.